due occhi grandi come il cielo, uno sguardo che ha fatto tremare tutto in me. Poi, di lì a poco, la tua voce, il tuo respiro, oddio, non mi sembra vero. Non pensarti non posso, non sognare di noi non esiste, fare finta di non desiderarti è follia. Sognarci, desiderarci, trovarci dentro un sogno, per far l'amore io e te, la luna piena come testimone di questo strano amore, che ci porta a spingerci e a fregarcene del mondo. Sono un angelo senza ali, nessuno può farmi volare come mi hai fatto volare tu. Sbattere le ali come una rondine dentro il nido, con la paura di spiccare il volo verso di te. Strada nuova, mano nella mano, occhi negli occhi, con la felicità di uno strano destino che ci aspetta dietro l'angolo domani. Sognarci, desiderarci, trovarci dentro un sogno, per far l'amore io e te, la luna piena come testimone di questo nostro amore, che ci porta a spingerci e a fregarcene del mondo. Poi ho visto te come un bambino, guardo nel cielo, oh, oh, oh, oh, dove un temporale ti ha sconvolto la vita. Ma ora sono io con te e tu con me, e il temporale cesserà perché, perché con l'amore che ho per te nulla dovrà farti soffrire. E quel che resta di ieri servirà per dirci ti amo ogni giorno sempre più, e abbatteremo le difficoltà. Non ci sono più sogni, non ci sono più desideri, ora siamo una realtà che per sempre resisterà. Desiderarci, provarci, sognarci, desiderarci, provarci, stringerci e fregarcene del mondo. Non posso, non sognare di noi, non esiste.